Va ora in onda Note, a cura di Giacomo Sapienza. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di CRM Happy Radio, puntualissimi alle ore 12:10 del mercoledì, siamo in onda e subito l'annuncio del giorno. Diventa anche tu fans della nostra pagina di Facebook, cerca CRM Happy Radio e clicca sul bottone mi piace. Quindi entra anche tu a far parte della grande famiglia di CRM Happy Radio. Oggi, come la volta scorsa, nessun ospite in studio, ma parleremo di tanti argomenti perché sono tanti gli argomenti della settimana. Alla regia, come sempre, Santi Genovese, vi ricordo questa sera alle ore 17 in diretta streaming su CRM Happy Radio la sua trasmissione dedicata all'Astro d'Argento con un'importantissima novità. Anzi, una l'anticipiamo. Giorno 7 aprile al teatro comunale, conferma Santi, al teatro comunale ci sarà una finalissima, quella dei più piccoli partecipanti all'Astro d'Argento. Quindi non mancate a questo appuntamento per vedere all'opera, possiamo dire questo, anzi possiamo usare questo termine perché siamo in un teatro comunale davvero straordinario, quello di Cefalù, intitolato al grande maestro Salvatore Cicero. Cicero, un maestro che ha dato la sua vita per formare i giovani alla musica, e ci saranno i piccoli talenti che dal teatro comunale speriamo possano spiccare il volo verso più alti traguardi. Sono i più piccoli, quindi tutti vincitori, giusto Santi? E conferma anche questo. Allora, peccato che ci sono pochi posti a disposizione, purtroppo tu sai benissimo il teatro comunale che agibilità ha, mi spiace tantissimo per quelli che non potranno essere presenti, ma ne parleremo stasera. Comunque ci sarà la diretta CRM in streaming e per quelli che non potranno entrare la potranno vedere attraverso internet. Sì, ricordiamo, il Teatro Comunale Salvatore Cicero è stato set per il film di Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, il film che ha vinto l'Oscar. Era uno dei due cinema dove si svolgevano le scene principali, ma Cefalù soprattutto era la base logistica del regista bagherese per il suo film ormai conosciuto in tutto il mondo. Purtroppo il Teatro Comunale, lo ricordiamo, non è agibile in tutti i suoi posti, ma soltanto per motivi burocratici. È il primo cittadino, durante una conferenza stampa proprio indetta da CRM e Pir Radio, ha confermato che l'iter gli è stato avviato per poter riaprire il teatro comunale in tutto l'ordine dei suoi posti. Nuove notizie a proposito di sindaco. Il sindaco ieri mi ha annunciato, anzi, per conto della testata per cui scrivo il Giornale di Sicilia, che presto ci sarà la gara per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. La giunta municipale guidata dal sindaco, appunto, Rosario Lapuntina, ha approvato il bando e il disciplinare di gara per i lavori di realizzazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco in Contrada Calura. Si tratta del primo stralcio funzionale, però attenti a questa parola funzionale, perché proprio sta a indicare che già con il primo stralcio la caserma diventerà operativa. Un appalto che sarà di circa 500.000 euro, ma l'importo complessivo dei lavori è di 800.000 euro, perché poi sappiamo tutti benissimo che c'è l'importo a base d'asta, gli oneri per la sicurezza e quant'altro. Quindi va a concludersi un iter che era iniziato, pensate, nel 1995, quando fu affidato l'incarico, se non sbaglio, all'architetto Salvatore Battaglia, il compianto architetto Salvatore Battaglia. Nel frattempo, quindi, tante vicissitudini, sappiamo i tempi tecnici sono lunghissimi, i tempi burocratici altrettanto, e si arriva soltanto al dicembre dello scorso anno, quando il sindaco Rosario Lapuntina finalmente dava il via libera al progetto esecutivo. Adesso con la determina di questi ultimi giorni, di ieri se non sbaglio, si dà il via libera anche alla gara, quindi tra poco ci sarà pubblicato il bando di gara e potranno iniziare i lavori. Sull'importanza di una caserma dei Vigili del Fuoco a Cefalù è inutile soffermarci, perché sappiamo tutti che è un'opera di primaria importanza e sappiamo tutti gli incendi che hanno toccato, che hanno ferito il nostro territorio negli ultimi anni. Ricordiamo quello proprio dell'anno scorso, E sappiamo benissimo quindi quanto importante sia avere un distaccamento dei vigili del fuoco a Cefalù, che ricordiamo i vigili del fuoco non si occupano solo di incendi, ma anche di interventi per calamità naturale o per soccorsi vari. Un corpo davvero fantastico che salutiamo calorosamente. Dalla regia mi fanno segno che probabilmente già siamo pronti per il primo stacco e quindi subito la linea alla regia. Note, a cura di Giacomo Sapienza. Bentornati in studio e vi ricordo sempre che sulla pagina Facebook potete mettere un mi piace per diventare nostri fan. Allora, un altro avviso importante. La Sicilia in TV con gli scatti di Nunzio Turdo. Domenica prossima alle ore 11 all'interno del settimanale Mediterraneo, che va in onda su Rai 3, prodotto da Rai TGR, ma anche dalla TV Algerina, sarà realizzato un servizio sulle bellezze della Sicilia. E non potevano mancare gli scatti del fotografo cefaludese Nunzio Turdo, un fotografo che vive ed opera a Cefalù, che fin da piccolo ha coltivato la passione della fotografia, collaborando con tanti maestri fotografi e con tanti studi fotografici. E Nunzio Turdo con le sue foto lancia un messaggio di conservazione e rispetto dei beni che ci sono state tramandate. Lui nei suoi scatti ripropone le feste, i paesaggi, le tradizioni, tutte cose che dovrebbero venire gelosamente conservate e custodite di generazione in generazione, e gli scatti fotografici di Nunzio Turdo sono un contributo per questo davvero straordinario. A proposito di bellezze, parliamo di Parco delle Madonie. Ci sono ben due comuni che chiedono di far parte. Proprio in queste ultime ore apprendiamo di un'assemblea cittadina che si è tenuta a Gangi per chiedere se entrare o no nel Parco delle Madonie. L'orientamento credo sia quello di entrare. Stessa cosa succede del comune di Lascari. Mi diceva il presidente del consiglio comunale Salvatore Lardo, che saluto calorosamente e affettuosamente, un carissimo amico, che sarà portato in consiglio comunale, il prossimo consiglio comunale che si terrà il 20 marzo a Lascari, il punto all'ordine del giorno sull'allargamento dei confini dell'ente parco. Ricordo per chi non lo sapesse che l'ente parco attualmente è formato da 15 comuni e Gange e Lascari sono due comuni che sono proprio al limite del parco, due comuni che però hanno caratteristiche più che sufficienti per poter far parte dell'area protetta del Parco delle Madonie. Lascari, ricordiamo, questo territorio che è attraversato da ben tre fiumi molto importanti, sappiamo quanto sia importante garantire diciamo, il bacino fluviale di questi percorsi d'acqua, e poi sappiamo anche delle torri di Lascari, del territorio a mare, dell'area boschiva a monte. Stessa cosa di Gangi. Gangi è uno dei comuni più grandi delle Madonie, con tradizioni straordinarie, con un territorio davvero bellissimo, e quindi due comuni che chiedono proprio in queste ore di poter essere ammessi nell'area protetta del Parco delle Madonie. Ci sono altri comuni che hanno fatto simile richiesta, quindi un parco naturale destinato ad ingrandirsi. E ricordiamo che il Parco delle Madonie è uno dei più importanti al mondo per le sue caratteristiche, soprattutto per la sua flora. Ma ci sono anche altre notizie che arrivano da Cefalù. Si è parlato in queste ore dell'approvazione del piano commerciale, un piano necessario per lo sviluppo economico della cittadina normanna. Che cos'è un piano commerciale? Lo dice lo stesso la parola, il piano che regolerà lo sviluppo delle attività commerciali nel centro cittadino e nelle sue periferie. Si parla di attività commerciale che vengono suddivise, se non sbaglio, nelle attività commerciali vicinali, che sarebbero poi la classica putia, ma anche i negozi non troppo grandi ma di altissimo pregio. Poi ci sono le attività medie fino a 1000-1500 metri quadri, poi ci sono le macro imprese che sono anche i cosiddetti ipermercati, e quindi capite benissimo proprio l'importanza di avere un piano commerciale, un piano che va sicuramente abbinato ad un piano regolatore che deve ancora arrivare purtroppo, ma questo, come hanno detto in Consiglio Comunale, è soltanto il primo passo di un grande progetto di sviluppo della città, un progetto di rilancio della città che non poteva fare a meno di un piano commerciale. Poi dobbiamo fare i complimenti, restando a Cefalù, alla coppia Morello-Puglia. Hanno ancora vinto, sono due campioni di ballo e hanno ancora vinto presso il Palasporto di Lecce. Quindi complimenti ai ballerini cefaludesi che portano per l'Italia e anche oltre il nome della città di Cefalù. E a proposito di TV e trasmissioni, non possiamo non ricordare, Santi, mi rivolgo al regista che è un esperto di spettacolo, la trasmissione Mezzogiorno in Famiglia, condotta in studio, se non sbaglio, da Magalli. La città di Cefalù è stata invitata, certo, forse non in una data molto, molto felice, perché è il giorno di Pasqua e sappiamo che a Pasqua probabilmente ci sarà il nuovo Papa su Rai 1 che celebra la messa, e a mezzogiorno ci sarà l'Angelus con la benedizione Urbi et Orbi, gli auguri in tutte le lingue del mondo. Però è una trasmissione importantissima per i partecipanti e per la città stessa, che sarà alla ribalta di una TV nazionale, anzi addirittura della RAI. E allora cosa bisogna fare per partecipare? È lo stesso sindaco che annuncia l'evento e ci spiega cosa bisogna fare per partecipare. Innanzitutto bisogna formare una squadra con elementi 10 che abbiano un'età compresa tra i 20 e i 30 anni e siano appartenenti ad un'associazione sportiva cittadina. Quindi si presuppone già degli atleti, quindi per gare che impegneranno anche il fisico oltre che la mente. Inoltre sarà necessario avere un caposquadra che sarà compreso nei 10 componenti. Questo deve essere un insegnante, un giornalista o un avvocato. Non sappiamo il perché, ma occorrono queste alte professionalità, insegnante, giornalista e avvocato. Ci sarà un provino e quindi le selezioni. E poi nei giorni 27 e 28 marzo si andrà per la registrazione del programma che sarà trasmesso su Rai 2, sabato 30 e domenica 31 marzo, che ricordiamo è il giorno di Pasqua. In caso di vittoria si prenderà parte ad altre puntate del programma. Ci sarà anche una finalissima, leggevo nel regolamento, e le spese di viaggio e il soggiorno della capitale saranno sostenute dalla Rai TV, cosa che invece non avviene per la partecipazione alla prima puntata. Ognuno dovrà pagarsi il viaggio, ma la spesa è piccola e quindi vale la pena in ogni caso far parte dello staff, del team che parteciperà a Mezzogiorno in Famiglia. Se non sbaglio ci sarà anche una squadra che sarà in piazza a Cefalù che sfiderà la piazza della città che è la città concorrente a noi. Quindi Mezzogiorno in Famiglia, chi vuole entro venerdì questo deve assolutamente contattare il municipio per chiedere di poter far parte della squadra. Quindi i 10 ragazzi tra i 20 e i 30 anni più uno, compreso anzi uno che abbia la qualifica di avvocato, giornalista o insegnante. Poi fanno gente, essendo insegnante e giornalista, di se posso partecipare, ma non sono tra i 20 e i 30 anni, purtroppo. Allora, rimaniamo ancora nella città di Cefalù, notizia curiosa quanto drammatica. La prendo da Cefalù News questa volta. I numeri di una raccolta alimentare, cosa è successo? Cosa sta succedendo, anzi? E purtroppo anche nella nostra città aumenta il numero dei poveri, aumenta il numero delle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Allora a provvedere sono delle associazioni di volontariato e le parrocchie. E purtroppo sappiamo che le sovvenzioni che arrivano dallo Stato sono sempre di meno, e quando si parla di welfare bisogna fare i conti anche con i soldi che vanno, i soldi trasferimenti dallo Stato ai comuni, dalle regioni ai comuni, che sono sempre di meno. Allora, dicevamo, le parrocchie provvedono provvedono a delle raccolte alimentari. Ha provveduto questa volta la parrocchia dello Spirito Santo, guidata dal parroco infaticabile Don Giuseppe Licciardi, che abbiamo anche avuto ospite in trasmissione. Sono stati raccolti 410 kg di pasta, 179 litri di latte, 110 pezzi di omogeneizzati, 100 pezzi di pelato, 96 bottiglie di salsa, 73 scatole di tonno, 58 pezzi di legumi secchi e così via. E poi c'è una dichiarazione di Angelo e Michele, che sono oltretutto due giovani volontari della parrocchia dello Spirito Santo, che abbiamo anche avuto ospite qui su CRM Happy Radio. In un momento così difficile, ci dicono, chi ha la possibilità di entrare nelle case del cefaludese e di ascoltare i loro reali bisogni, le problematiche che li affliggono, si è reso conto che il problema della povertà ci riguarda molto più da vicino di quanto possiamo immaginare. Ed è appunto quello che sottolineavamo qualche istante fa. Purtroppo la povertà aumenta, la crisi si fa sempre più sentire, noi non facciamo politica, ma sappiamo che è necessario subito un governo che dia una risposta ai reali bisogni del nostro paese. Quindi siamo in un momento in attesa del Papa, in attesa del governo, purtroppo il momento non è dei migliori. E a proposito di Papa, potevamo non parlare del conclave, parliamo anche del conclave. Siamo alla seconda giornata, fino a poco fa le agenzie battevano di un'altra fumata nera, si attende la fumata bianca. Sappiamo che i 115 cardinali, se non sbaglio, sono riuniti sotto chiave, appunto in conclave, nella Cappella Sistina, per scegliere il nuovo cardinale. Si fanno tanti nomi e si ci scherza anche sui nomi, sulle loro attività, perché ricordiamo che qualche cardinale è anche un valente sportivo, chi ha degli hobby diciamo di sport particolare, tipo lo squash, la pallacanestro, ma ci sono anche dei cardinali che arrivano dai paesi del Sud America o dell'Asia, che sono davvero delle persone straordinarie, impegnate in mezzo alla gente, nei campi, in mezzo alla povertà, quella più nera, come si suol dire. Quindi, come diceva qualcuno, il Signore, per chi crede, il Signore ha già scelto il cardinale, il nuovo Papa, sta adesso ai cardinali individuarlo tra quelli che sono eleggibili. Anzi, a proposito, una curiosità, sapete chi può essere eletto Papa? Questo ormai lo sanno tutti, ma lo ricordiamo sempre perché è una cosa molto curiosa. Tutti possono essere eletti Papa, occorre soltanto avere tre caratteristiche: essere uomini, essere battezzati e non essere sposati, perché sono le direttive direttive che la Chiesa tramanda da generazione in generazione per poter far parte per poter entrare ad essere parte nella gerarchia della Chiesa, e in questo caso nel grado più alto di sommo pontefice. Quindi non occorre essere cardinali, vescovi o altro, occorre soltanto essere battezzati, maschi e non sposate, perché sappiamo tutti che nella Chiesa il sacerdozio prevede il celibato e il sacerdozio non prevede la figura femminile in questo ruolo. Quindi aspettiamo fiduciosi che venga scelto il nuovo Papa, e con questo pensiero ricordiamo, però datemi una linea alla regia, come ci è stato richiesto dal nostro regista. Note, a cura di Giacomo Sapienza. E ricordo per la terza volta consecutiva l'annuncio, diventa anche tu fan della pagina Facebook CRM Happy Radio. È semplicissimo, accedi a Facebook e clicca mi piace sulla pagina CRM Happy Radio. E allora, abbiamo parlato poco fa di Parco delle Madonie, non possiamo non salutare il nuovo baby presidente, il mini presidente del Parco delle Madonie, è Alessandra Balagia, mini sindaco di Petralia, che proviene da Petralia Sottana. Prende il posto di Lucrezia Polizzi, che era alunna donna dell'Istituto Comprensivo di Castellana Sicula e quindi mini presidente del parco uscente. Ad Alessandra Balagia l'augurio di un proficuo lavoro. Ma a proposito di giovani e di scuole, voglio ricordare la grande iniziativa del Lions Club di Cefalù, che ieri a Castelbuono ha dato vita all'ennesima edizione del progetto Martina. È un progetto che si rivolge agli studenti con delle relazioni proposte da specialisti del settore sulle malattie che colpiscono soprattutto la donna in giovanissima età. Un progetto che il Lions Club International porta avanti in tutto il mondo e nella nostra zona è portato avanti dal Lions Club Cefalù, ma anche credo dal Lions Club Madonie. Il Lions Club Cefalù è presieduto dall'ingegner Giuseppe Martorana, che ha sempre voluto incentrare il suo programma nel sociale, e quindi con il progetto Martina fa parte di uno dei punti essenziali di questo programma. Ricordiamo che ancora che il comune di Cefalù organizza la giornata dell'unità nazionale domenica prossima, e ci sarà un appuntamento in Piazza Duomo alle ore 10:30 con l'alza bandiera e l'esecuzione dell'inno nazionale. Seguirà quindi un momento di riflessione con l'omaggio ai caduti e quindi la deposizione delle corone d'alloro nei monumenti ai caduti, ed ancora nella sala delle capriate del municipio ci sarà la consegna dei riconoscimenti ai combattenti che hanno preso parte agli ultimi conflitti bellici. Tantissimi magari saranno impossibilitati a venire, perché ricordiamo che ormai chi ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale ha superato i 90 anni di età. Quindi ci sarà appunto la consegna di questi riconoscimenti e speriamo di poter essere con CRM presenti per trasmettere come sempre in streaming quanto avviene nella nostra città. Due importanti avvisi che sono attesissimi da tantissimi ragazzi: sono stati messi in liquidazione i rimborsi per gli scrutatori che hanno prestato servizio dei seggi cefaludesi, 18 seggi cefaludesi, in occasione delle elezioni politiche di domenica 24 e lunedì 25. Loro avevano preso servizio il giorno prima per l'allestimento dei seggi, quindi 3 giorni di lavoro che saranno presto ricompensate. Con delibera del responsabile del settore affari generale del comune, la dottoressa Pernice, è stato dato il via libera quindi alla liquidazione per i suddetti scrutatori. La somma complessiva ammonta a circa 16.500.000 euro da imputare al capitolo sui servizi per conto dello Stato. Quindi ci rendiamo benissimo conto quanto costa un'elezione e quanto costerebbe un'eventuale riandata alle urne. Ma c'è anche il via libera al rimborso per i buoni libro. Questa volta la determina arriva dall'ufficio di gabinetto che si occupa anche di pubblica istruzione, la signora Lucia Greco, che ha predisposto il mandato in favore di chi esercita la patria potestà, perché sappiamo che gli studenti sono piccoli e non possono ricevere somme da un ente pubblico, quindi i genitori riceveranno il buono libro e per questo sono state impegnate circa 22.000 euro. Quindi buoni libri, rimborso elettorale, una boccata di ossigeno per le famiglie e soprattutto per i ragazzi. Abbiamo parlato di elezioni, sappiamo tutti che quando si parla di elezioni il pensiero corre ai costi della politica, e quando si parla di costi della politica uno dei punti che sarà presto affrontato soprattutto in Sicilia sarà la chiusura delle province. Arriva la protesta però di Giuliano Cortina, che sempre su Cefalù News ha inviato una nota contro la chiusura delle province. Lo avrebbe comunicato ufficialmente nel corso di un incontro della segreteria regionale dell'UDC. Il consigliere provinciale avrebbe voluto per questo uno scontro verbale piuttosto acceso con Giulia Adamo. Cortina avrebbe accusato l'Adamo di aver creato carrozzoni come l'Unione dei Comuni, Iato rifiuti e quelli idrici. Il consigliere provinciale sarebbe così sceso in difesa delle province, che verrebbero riformate quali enti intermedi, con competenze specifiche, introduzione dei consiglieri e dei costi. Cortina, insomma, vorrebbe fosse lasciata la votazione democratica al popolo e non sarebbe d'accordo perché passasse ai comuni. Certo, qualcuno si chiede, i comuni debbono accollarsi anche le spese delle strutture che la provincia lascerebbe? Non sappiamo, è un argomento tutto da approfondire, ma intanto la politica esige un taglio dei costi, non sappiamo in quali forme, non entriamo nel merito dei pro o dei contro, ma i fatti sono questi, c'è chi è contrario alla chiusura, all'abolizione delle province, c'è chi resta favorevole. Detto questo, facciamo un'altra pausa. Distanze ci informano che siamo fragili, e guardando le foto ti ricorderai quei giorni di quiete sapendo che te ne andrai, ma io avendo paura non ti cercherò. Trasformano intere identità, ma è guardando le stelle che mi innamorerò di tutte le cose più belle che ci sono già, ma che fanno paura perché siamo fragili, fragili, fragili. Joe! veramente bello questo brano delle Vibrazioni, Vieni con me, un gruppo che abbiamo avuto modo di ascoltare qualche anno fa a Campo Felice di Roccella in un concerto davvero straordinario. E a proposito di artisti, parliamo di un artista cefaludese, un artista della moda e in questo caso dei capelli. E parliamo del nostro parrucchiere Sergio Raimondi, che si trova a Bologna, dove è stato impegnato per conto anche dell'azienda tedesca Tondeo, che è un'azienda che produce articoli per i parrucchieri e per i super professionisti del capello, e tra questi c'era Sergio Raimondi, gestore assieme al papà Umberto dell'omonima parrucchieria di via Vittorio Emanuele a Cefalù. Conosciamo tutti Sergio Raimondi perché è anche impegnatissimo nel sociale, anche un valente musicista, e lui e tutta la famiglia è una famiglia di musicisti straordinari che portano avanti soprattutto le tradizioni folk della nostra terra, ma Sergio è anche, come abbiamo detto, un grande artista dei capelli, un parrucchiere straordinario ed ha avuto un successo altrettanto straordinario in quel di Bologna per i suoi tagli originali. E lui ha detto che è stato un onore poter proporre le sue acconciature in un'importante vetrina internazionale come il Cosmo Prof di Bologna, e per questo vuole ringraziare lo staff dell'azienda Tondeo che gli ha affidato la responsabilità del suo stand e con cui certamente realizzerà altre proficue collaborazioni. La Tondeo, ripetiamo, è una multinazionale per prodotti e per parrucchieri. Quindi auguri e congratulazioni a Sergio Raimondi, che ricordiamo cura anche una pagina su Facebook molto seguita, cura la pagina delle foto storiche di Cefalù. E a proposito di foto storiche, lo stesso Sergio Raimondi ci ha annunciato che presto sarà in rete, è già in rete nella forma, come si dice, nella prima release, l'1.0, il sito Cefalù Foto Storiche, dove viene raccontata la storia di Cefalù degli ultimi anni per immagini, una storia che inizia veramente tantissimi anni fa con i pionieri della fotografia. Sono tanti che inviano foto e vi invito a visitare la pagina Facebook Foto Storiche di Cefalù e poi, quando sarà completato, anche il sito fotostoriche.it. E a proposito di Facebook, non vi voglio nuovamente ricordare, perché l'ho detto già tante volte, che potete diventare fan della pagina CRM Happy Radio mettendo il semplice mi piace sulla pagina apposita di Facebook. E non possiamo non parlare di sport, anche perché avevo invitato due gentili giocatrici della pallavolo, ma purtroppo per sopraggiunti impegni in vista dei prossimi appuntamenti sportivi hanno dovuto rinunciare all'invito, ma mi hanno confermato la loro presenza eventuale nelle prossime trasmissioni. Sto parlando della squadra di pallavolo della Costa Verde, che domenica ha vinto alla grande sulla Finnova Costanzo una gara difficilissima che valeva la riconferma del secondo posto in classifica. Abbiamo le squadre di paludese, e Santi è il conduttore della trasmissione per eccellenza a Cefalù per lo sport ormai, una trasmissione che si svolge ogni martedì, se non sbaglio, alle ore 17, sempre con tanti ospiti in studio per discutere dello sport, ma anche dei problemi legati allo sport. Quindi dicevamo, Cefalù sta vivendo, credo, e attendo conferma dalla regia, da Santi Genovese, un momento davvero magico per lo sport. Abbiamo il Cefalù Calcio, se non sbaglio. Io non seguo il calcio per motivi professionali. Diciamo che io intanto saluto dalla regia i nostri radioascoltatori. Diciamo che, malgrado tutte le difficoltà che ci possono essere economiche, ma anche strutturali, le squadre cefaludesi quest'anno stanno andando alla grande, cioè praticamente abbiamo una Cefalù Calcio seconda in classifica, ma a due punti dalla prima, e ha recuperato veramente alla grande il distacco che era molto più cospicuo rispetto a Rocca di Caprileone. Rocca di Caprileone, che in queste ultime gare ha perso qualche punto, adesso per la Cefalù Calcio va a intravedere quella che potrebbe essere la promozione diretta, se si riesce ad agganciare appunto la Rocca Rocca di Capeleone, che è solo due punti, poi grandissimo, e che abbiamo battuto, e che abbiamo battuto in casa, poi abbiamo perso una partita rocambolesca fuori casa, dopo essere andati in vantaggio, praticamente un infortunio del portiere, quindi una... se non sbaglio 2-0 in casa e 2-1 abbiamo perso fuori casa, quindi sì, siamo in vantaggio, in vantaggio rispetto agli scontri diretti. Poi fra l'altro devo dire che la partita persa a Rocca di Capeleone è stato veramente un infortunio, in quanto un infortunio del portiere più un'espulsione, rimasti in 10 uomini, dal vantaggio acquisito meritatamente poi si è passato alla sconfitta per 2-1. Comunque sono, il calcio è fatto così, il Milan aveva vinto 2-0 in casa, ieri sera ha perso 4-0 a Barcellona, e tutto può succedere, così come sì, può succedere il fatto che il Cefalù Calcio possa essere, possa vincere questo campionato ed essere ammessa di diritto al prossimo campionato di promozione. Sì. Anche la, il basket, come tu sai, caro Giacomo, sta andando alla grande, domenica ha fatto quasi un allenamento in casa, ha vinto per un distacco notevole, la pallavolo sta andando bene, il calcio a 5, il Real Simegas Cefalù è già stato promosso con alcune giornate di anticipo, insomma diciamo che malgrado i problemi, e uno di questi è il campo di Santa Barbara, nell'ultima partita il pubblico è dovuto andare via, scappare mentre c'era la partita, perché non essendoci la copertura nelle tribune è venuto giù un bel po' di pioggia e la squadra cefaludese è rimasta praticamente senza pubblico, perché il pubblico si è dovuto andare a riparare dalla pioggia e dal vento. Ecco, questo è importante dirlo, e noi continueremo nel nostro appuntamento di ogni martedì a ribadire che la volontà c'è, ma ci vogliono anche le strutture adeguate per poter andare avanti nello sport. Sicuramente, ma non è questo il motivo per cui io non seguo il calcio, perché purtroppo per motivi professionali il sabato sono sempre impegnatissimo, anzi sempre impegnato il sabato in genere, e la domenica il mio giornale mi invia per fare l'articolo della pallavolo o al limite del basket, soprattutto della pallavolo, essendo il corrispondente da Cefalù per il giornale di Sicilia, appunto per la pallavolo, quindi seguo molto spesso, le partite sono state in contemporanea, quindi ho dovuto scegliere la pallavolo, uno sport che comincio ad appassionarmi sempre più, anche perché chi mi conosce sa che sono stato per anni tesserato nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro e seguivo la Serie A1 femminile, la B d'eccellenza allora maschile, quindi il basket era sempre, è sempre stato la mia passione, ma adesso c'è anche la pallavolo e la pallavolo va davvero forte, un gruppo di 7 ragazze appena, ma domenica abbiamo visto anche 4 ragazze giovanissime della prima divisione, segno che qualcosa si muove nei vivai. Ma, ma infatti io ho puntualizzato proprio questo, che la squadra cefaludese è una squadra a ranghi ridotti, cioè praticamente ha un organico molto striminzito rispetto ad altre società che invece hanno praticamente un bell'organico. Ma devo dire oltretutto un'altra cosa importante, ecco, la forza di questa società è proprio quella di investire sul vivaio e di far crescere le nostre ragazzine che, devo dire, finalmente vengono valorizzate anche a certi livelli. Bene, come in tutte le trasmissioni, in tutti i TG, anche se questo non è un TG, chiudiamo con lo sport, visto l'orario, rispettiamo gli orari, il palinsesto di CRM e più radio, 12.10, 12.55, siamo alle 12.52, quindi giusto il tempo per ricordare qualche appuntamento. Ricordo domenica prossima la giornata dell'Unità Nazionale a partire dalle ore 10.30 in Piazza Duomo con l'alza bandiera, l'inno nazionale, l'omaggio ai caduti. Sì, l'omaggio ai caduti e poi la consegna degli attestati agli ex combattenti. Ricordo ancora che ci saranno degli appuntamenti importanti anche per lo sport, ma saranno tutti in trasferta, saranno due giornate decisive, quindi i tifosi se vogliono possono recarsi a seguire e sostenere sportivamente le nostre formazioni, e soprattutto il calcio che andrà, se non sbaglio, a Collesano, sarà il derby delle Madonie per eccellenza. Ci sarà il derby, e soprattutto visto che il Collesano naviga in bassa classifica, speriamo bene per la Cefalù Calcio. Certo, speriamo. La pallavolo andrà a giocare invece in quel di Barcellona, Pozzo di Gotto, che vista la classifica non è certo il Barcellona visto ieri sera, Sante. Sicuramente no. Come nel calcio, anche nella pallavolo, la palla è rotonda, mai sottovalutare gli avversari. Il basket invece andrà a giocare una partita difficile, se non sbaglio, a Pacheco. Quindi... Caro Giacomo, i campionati si perdono con le piccole, mai sì. Negli scontri diretti, quasi mai. E appunto, quindi, con il vecchio detto che la palla è rotonda, occhio aperto ai nostri ragazzi, in bocca al lupo, ma a questo punto l'orario è davvero... Si è fatto davvero tardi la pubblicità, e poi ritorniamo magari per il saluto ai radioascoltatori. Pubblicità. E siamo tornati in studio giusto per i saluti a tutti voi che siete stati in ascolto della trasmissione Note condotta da me, Giacomo Sapienza. E vi ricordo ancora una volta che potete diventare fan della nostra emittente cliccando il classico mi piace su CRM Happy Radio. Questo è davvero tutto per oggi, appuntamento per le prossime trasmissioni, a tutti una buona giornata, ciao!